La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua, amici, un saluto da Franco D'Assisti, La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24, settimana, come spesso accade negli ultimi tempi, densa di novità al cinema, e noi andiamo subito a ripercorrere le tematiche principali e i titoli principali di questa nostra puntata nei nostri titoli di testa. Alice è una ricca signora che si ritrova sul lastrico dopo la morte del marito. Per sopravvivere si improvvisa escort. È la trama di Nessuno mi può giudicare, commedia diretta da Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi e Raul Bova. Prequel o Lesa Maestà divide il nuovo Amici miei di Neri Parenti, che prende spunto dal mitico film di Mario Monicelli. Stavolta storie, scherzi e zingarate sono ambientate nella Firenze di Lorenzo il Magnifico. Il burlesque ha un nuovo ambasciatore. È Tournée, il film di Mathieu Amalric, che dopo i riconoscimenti a Cannes arriva nelle sale italiane. Storie ed esibizioni di una compagnia di simpatiche spogliarelliste un po' sovrappeso. Fresco della vittoria di 3 Oscar arriva in un video The Social Network, il film che racconta la nascita del celebre Facebook. Ne parliamo nel nostro spazio dedicato alle visioni domestiche. E allora subito nel cuore delle novità italiane, perché arriva nelle sale un film che potrebbe perpetuare il buon andamento di una commedia italiana meno volgare e più vicina al sentire del paese, dell'Italia vera. Stiamo parlando questa volta di Nessuno mi può giudicare, lo ha visto per noi Barbara Righini. Qua la situazione è tragica, tuo marito ti ha lasciato una montagna di debiti. A te ti serve una roba di almeno 1.000 euro. Ma chi me li dà 1.000 euro al mese? Ma che mese al giorno? Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Alice, giovane, carina, un tempo ricchissima, o almeno così credeva. Paola Cortellesi è la protagonista di Nessuno mi può giudicare, firmato da Massimiliano Bruno, attore che con questo film esordisce alla regia. Alice ha un problema, il marito è morto e lei si ritrova vedova con un figlio e un bel po' di debiti da ripianare. E allora dai Parioli, quartiere bene di Roma, Alice dovrà trasferirsi nel popolare quarticciolo. Non è l'unico cambiamento però per lei, ora dovrà lavorare e guadagnare moltissimo in breve tempo. La scelta è obbligata, fare la squillo. Per imparare il mestiere, Alice si fa aiutare da una conoscente, Eva. Preparati soprattutto ad incontrare molti politici. Un consiglio, se sono di destra, tu ridi. Ridi su ogni cosa che dicono, perché a loro piace tanto sembrare simpatici. Di destra, ridere. Se invece sono di sinistra, tu annuisci in continuazione, perché loro hanno bisogno di sentirsi intelligenti. Vita nuova, amici nuovi, questa volta amici veri sui quali si può contare. Al quarticciolo Alice incontrerà vicini di casa chiassosi e invadenti, ma persone che non si tireranno indietro nel momento del bisogno. E infine arriverà anche l'amore. ...400 coppie per questo debutto, è un cast fatto di vecchie conoscenze del regista Bruno, che ha raccolto attorno a sé colleghi con i quali lavora a teatro. Oltre alla Cortellesi ci sono Rocco Papaleo, Caterina Guzzanti, Lucia Ocone e Raul Bova nei panni del principe azzurro coatto di Alice. E il punto di forza di Nessuno mi può giudicare è proprio il cast, Cortellesi in testa a tutti, un cast ben affiatato e mai sopra le righe, che si giova di battute ben scritte. Il film è sì una commedia, ma non rinuncia a lanciare spunti di riflessione, anche se a volte tende un po' troppo al pedagogico e si concede momenti di romanticismo strappalacrima. Il regista Massimiliano Bruno non nasconde che con il film voleva criticare una certa Italia. L'intento del film era far arrivare il messaggio che era questo personaggio principale che un po' rappresenta l'Italia, un'Italia che si vende, un'Italia in vendita, l'Italia della crisi che per sopravvivere deve fare qualcosa che non vorrebbe fare. La sfida era farlo con leggerezza, cioè cercare di far ridere, di far divertire in modo tale che il pubblico potesse fruire una commedia divertente e allo stesso tempo alla fine uscire fuori con una piccolissima riflessione. Noi abbiamo fatto attenzione anche alle singole battute e quindi niente, la sceneggiatura è stata complicata per questo motivo, perché dovevamo conciliare due toni, che era quello più comico e quello più drammatico. E Lucia Ocone, che nel cast è una vicina di Alice, ammette che il clima al quarticciolo durante le riprese non era troppo dissimile da quello descritto nel film. Hanno avuto veramente quel calore che ha il mio personaggio con quelli di quel palazzo lì, no? Cioè veramente quella realtà che è veramente che entra nella finzione o viceversa, e sono stati molto accoglienti, sono stati molto, ma nello stesso tempo molto poi rispettosi, educati a dire scusa, posso così, pure di dire ma sì dai venite a mangiare da noi, o a stare veramente a commentare le scene che a Massimiliano dicevano ma tu dici che questa scena l'ha fatta bene, io gliela farei fa più intensa. La rosa purpurea. Ancora insieme alla rosa purpurea, diamo un'occhiata alla classifica, è il momento per farlo. Abbiamo parlato di Nessuno mi può giudicare dicendo commedia educata, commedia di contenuti, commedia che può, divertendo, perpetuare questa stagione d'oro della commedia italiana e di una certa commedia italiana, quella che più di altre ha pensato di rinunciare alla volgarità cinepanettoniana e invece di raccontare un po' di più, col sorriso ovviamente, l'Italia per com'è oggi. Ebbene, dico il momento giusto per la classifica, perché stiamo per parlare di Amici miei, che invece è un'operazione totalmente opposta, cioè l'operazione di un titolo glorioso, mitico addirittura, abbiamo usato questo aggettivo nei nostri titoli di testa della storia del cinema italiano, parlo del titolo ovviamente di Mario Monicelli, e che appunto vede un suo remake che strizza l'occhio a un cinema più di cassette, insomma cercare di utilizzare questo brand fortissimo di Amici miei con attori di sicuro richiamo nel cast, ma forse senza quella urgenza, quella necessità e soprattutto quella capacità di poter raccontare il nostro oggi. È successo nella settimana scorsa, nello scorso weekend, che in classifica per la prima volta non c'è un film italiano primo, per la prima volta in questa stagione, da settembre in poi. Domina Rango di Gore Verbinski, bellissimo cartone animato, film d'animazione, con quasi 2 milioni di euro di incasso nel weekend. Al secondo posto ritroviamo un horror, genere che quest'anno stava andando un po' così, ed è Il rito di Mikael Hafström. Al terzo posto La vita facile di Lucio Pellegrini, che però non ha incassi clamorosi fino a questo momento, circa 2 milioni di euro dall'inizio del suo sfruttamento. E poi un diesel come Il discorso del re, film da Oscar di Tom Hooper, che è arrivato a più di 7 milioni di incasso globale, e per questo tipo di pellicola è uno straordinario successo. Solo quinto Manuale d'amore 3, che raccoglie 6 milioni dall'inizio del suo sfruttamento, praticamente dimezzando gli incassi dei primi due capitoli di questa saga. Si era pensato a una pentalogia, 5 capitoli di questa saga. Chissà se questa debacle, possiamo dire, un po' forse non farà ripensare alla necessità di fare altri film in questo solco. Questo perché il pubblico del cinema italiano è cambiato molto, e allora questa settimana ci potrà dire se si è affermato, si è consolidato un pubblico per quella commedia appunto come Nessuno mi può giudicare, o se invece c'è ancora spazio per il film che guarda in maniera un po' meno raffinata, diciamo così, al pubblico e cerca un po' più la risata fino a se stessa. È il caso di Amici miei. Noi abbiamo mandato in avanscoperta per vederlo insieme Chiara Pizzimenti. All'apice del suo splendore, Firenze fu colpita da una terribile calamità, la noia. Per combatterla, 5 amici si affidarono a nuovi rimedi. Zingarate, bischerate, cazzeggio, cazzeggio. È Lorenzo il Magnifico in persona che racconta la nascita delle zingarate nella sua Firenze. A mettere in piedi scherzi colossali sono Messer Tuccio, Michele Placido e i suoi compari, il nobile Cristian De Sica, l'oste Giorgio Panariello, Massimo Ghini, spiantato e pieno di figli, e Paolo Hendel, cerusico omosessuale. Insieme, vittime e carnefici. Allora io godetevi la partita. Ma dove tu vai? È cominciata ora. Apposta, il legnaiolo l'ha impegnato. Ma che ti trombi la moglie dell'Alderighi? Ah, princessa! Ma dove è mio marito? Ma chi c'è in casa mia? Casa tua! Questa è casa mia! Tu sei Matteo Cervelloni! Io non sono Matteo! Io sono gli Alderighi! Il legnaiolo! La trama non è molto altro. Donne, soldi e anche la morte. Tutto diventa burla in quello che è il prequel dichiarato, già nel titolo, di Amici miei. E quando si tocca un classico, le polemiche sono inevitabili. Gruppi di boicottaggio sui social network compresi. Il regista Neri Parenti, che parla di rispetto nei confronti dell'originale, da anni voleva fare questo film e ha utilizzato un'idea già sviluppata dagli sceneggiatori di allora, citati nel finale, mentre non c'è il nome di Mario Monicelli. Chi ha in mente però quegli amici non li ritroverà qui. Questi personaggi, uomini del rinascimento dei luoghi comuni, dalla lascivia femminile al Savonarola fustigatore, sono macchiette. Quelli erano veri proprio perché immersi nel loro tempo. Qui c'è una certa volgarità da cinepanettone, manca la fine cattiveria di Tognazzi e soci, le risate sono forzate. Yeah. Insomma, la nostra Chiara Pizzimenti non lascia molta speranza a questo Amici miei, il nuovo capitolo, un capitolo a parte, diciamo così, che ha il brand, che condivide il nome, il titolo, con il grande film e anche quelli seguenti poi della saga di Monicelli. Abbiamo raccolto anche qualche intervista, perché come dicevo il cast è ricco di nomi importanti del nostro cinema che di fronte a un'operazione di questo tipo, e sentirete adesso Michele Placido non lo nega neanche tanto, sono un'operazione commerciale anche di un certo interesse, non hanno certo negato la loro partecipazione. Sentiamo le dichiarazioni di Michele Placido. Questo è un film ambientato nella Firenze del fine 400, in cui gli autori di Amici miei hanno portato il gusto delle zingarate, anzi vorrebbero l'ambizione che di Benvenuto e De Bernardi è spiegare come è avvenuto, come è nata la supercazzola in qualche modo. Da questo punto di vista è un'operazione molto umile che si stacca completamente naturalmente dal capostipite che è stato Amici miei di Monicelli, proprio un'operazione vera e propria commerciale da parte del produttore che cerca di rilanciare questo titolo attraverso questa operazione. Ci sono state tante polemiche, particolarmente dure le pagine su Facebook. Come mai, secondo lei, che cosa si è scatenato per questo film? Oggi fa più notizia una notizia che appare su Facebook in cui ci sono 60.000 firme, pare, insomma 70 potrebbero essere anche, però che sono sempre ben poca cosa. Per quel che mi riguarda, no, io non ho sofferto di questa roba, l'unica cosa che seguo sono i giornali. Se un giornale fa una critica, va bene, l'accetto, mi hanno fatto crescere anzi le critiche, ma l'insolenza è quello che dispiace. L'insolenza poi diventa, sembra quasi un fattore personale, una questione di vita o di morte, insomma via, stiamo facendo soltanto del cinema e tentiamo di portare degli spettatori al cinema. Un nuovo Amici miei può far conoscere anche i vecchi Amici miei. Un grande successo al cinema si misura sugli incassi e chi porta più denaro al cinema sono i diciottenni. I diciottenni, ahimè, se io dico ai diciottenni chi è Gianmaria Volonté, non sa chi è. Se io dico chi è Tognazzi, peggio. Secondo me l'ambizione di De Laurentiis è proprio di portare, far diventare Amici miei un blockbuster che poi porti i ragazzi a comprare i DVD dei precedenti Amici miei. Io faccio parte di quella generazione che ne ha fatto un mito di quel film. Però con altrettanta spigliatezza ti dico che non mi dispiace questo Amici miei, come tutto ebbe inizio. E questo era Michele Placido, avete sentito dichiarazioni anche sincere sotto un certo profilo, ha usato più di una volta la parola operazione commerciale, devo dire non sono invece per nulla d'accordo con Michele Placido, che come cineasta, soprattutto come regista, ci ha regalato film importanti. Quando dice 60.000 firme su Facebook sono poca cosa, beh insomma forse, e anche quando dice in maniera forse un po' snob l'unica cosa che seguo sono i giornali, beh forse questo spiega che c'è un cambio generazionale in atto nel cinema italiano e anche nel pubblico del cinema italiano. Ma avete sentito, la filosofia è: sarà il botteghino a dirci chi ha ragione. Ma non sempre il botteghino dice chi ha ragione, dice chi ha guadagnato di più, questa è un'altra cosa. La nostra Chiara Pizzimenti ha avvicinato anche un altro degli interpreti, Massimo Ghini. Massimo Ghini torna a lavorare con Neri Parenti. Io racconto sempre che la cosa è cominciata per gioco. La prima volta fu Natale a Miami. Mi chiamarono e rimasi basito, io per primo, la mia famiglia. Ho solo aperto un capitolo nuovo che pensavo che nascesse e morisse là e che invece ha avuto poi un seguito, pur mantenendo quell'altra anima sempre viva. Ho visto che il pubblico ci sta, la stampa, la critica, questa cosa l'hanno presa come non neanche un tradimento, ma peggio. Devo dire che me ne sono fatto una ragione, credo di fare una cosa, e la cosa maggiore per me è sapere che l'ho saputa fare. Perché siccome questo è un cinema che non è assistito, questa è una prova del fuoco. C'è uno che mette i soldi, produce, e se tu non sei all'altezza vai a casa. E se fino adesso non mi hanno mandato a casa significa che sono stato all'altezza. Sei anche divertito però facendo questo? Io anche quando faccio Mattei, o se interpreto Amleto, o se faccio altre cose, mi diverto. La sofferenza è quando non ti chiamano, quando non lavori. In questo è chiaro. Faccio Amici miei, vestito del 400, la cosa che vi devo dire, c'è stato un momento, specialmente nella ricerca del personaggio, in cui ho dovuto ricordare, io quando faccio queste cose mi diverto. E questo invece era Massimo Ghini. E a questo punto noi apriamo la prima parentesi per il game, per il gioco che tutte le settimane offre ai nostri ascoltatori la possibilità di vincere un Blu-ray o un DVD. Anche questa settimana giochiamo con l'alta definizione. Quindi con il Blu-ray dovete indovinare che film è questo. Milano finalmente libera, saluta il popolo italiano. Qui parla il comando delle brigate partigiane. Frida, ma cosa ci fai qui? Non ti ho visto entrare. Se avete già indovinato di che film si tratta, A, siete bravi, B, scrivete il titolo e il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it. Più tardi ci saranno un altro paio di possibilità. Nuova corsa con un altro film, un titolo che questa volta arriva dalla Francia, è l'esordio alla regia di un attore molto apprezzato in Francia come Mathieu Amalric. Si intitola Tournée, ascoltiamo subito la clip. Fate tariffe per gruppi. Guardate qui. Che cos'è il New Burlesque? È una donna che si esibisce per le donne. Così l'uomo non la tiene più sotto controllo. Facciamo il nostro show e esprimiamo la nostra femminilità. La tua parte, meno la mia. Se Le Havre vi ama, tutta la Francia vi adorerà. Il vostro show, l'ho visto, siete state insuperabili. Grazie. Ho fatto lo stesso show per mio marito a casa. Aspetti, le mostro il mio numero. No, aspetti, non adesso. Ragazze, fa freddo qui fuori. Ma io sono calda dentro e tu lo sai. Puoi smettere di suonare? Ragazze, mi sentite? Sì. Lo show deve continuare. I love you. E questo è quindi un po' il clima del film. È un film molto interessante e molto originale per la sua storia. Storia di Joachim, un produttore televisivo parigino che è andato in America, ha fatto fortuna, poi però per il suo caratteraccio, insomma, è un po' uscito dai circuiti ufficiali della TV, cerca di riciclarsi, di ripartire, portando in giro per il mondo e in una tournée in Francia, per la precisione, una clan, uno spettacolo di spogliarelliste un po' sovrappeso, il cosiddetto New Burlesque, che prende le mosse appunto dallo spettacolo di Spogliarello e lo arricchisce con una serie di numeri da avanspettacolo. È una compagnia molto variopinta, molto allegra, molto vitale, queste donne sono davvero straordinarie, però è una compagnia che va in un paese dove le donne sono molto apprezzate, gli spettacoli hanno un grosso successo popolare, ma lui, il nostro Joachim, interpretato dallo stesso Mathieu Amalric, che è appunto anche regista del film, non riesce più a trovare il paese che aveva lasciato, non riesce a trovare una sua dimensione. Culmine di questa tournée dovrebbe essere lo spettacolo a Parigi, insomma la promessa è vi porterò a Parigi, però purtroppo a un certo punto tutto salta perché Amalric, anzi Joachim, viene nuovamente tradito, questa volta da un amico che gli aveva promesso il teatro e che invece si ritira all'ultimo momento. È il personaggio appunto di Joachim il vero centro del film, più che il burlesque, che comunque ci fa vedere un po' questo genere di spettacolo. Un film che l'autore e attore ha detto di avere pensato ispirandosi a un racconto dei primi Novecento di Colette, premio alla regia al Festival di Cannes. Tournée è un esordio davvero promettente, soprattutto per i tempi di Amalric, la sua capacità di accelerare sul drammatico e subito dopo alleggerire con la commedia, mixare il cinema verità con una sceneggiatura dove invece tutto è assolutamente previsto, e poi sapere anche dove mettere la macchina da presa per raccontare un'umanità in cerca di una felicità che si capisce non arriverà mai. Ascoltiamo allora la voce di Mathieu Amalric parlare proprio dell'incontro con questo straordinario cast. C'est des actrices et des acteurs extraordinaires. In questo film ci sono delle attrici e degli attori straordinari. Loro imparavano qualcosa e lo riproducevano immediatamente nella finzione. Hanno amato molto ciò che hanno fatto, ma quando avevano qualche dubbio chiedevano sempre: qual è la scena? Qual è l'azione? Abbiamo proceduto con azione, azione, azione, come se stessimo facendo un documentario, per far sì che realmente sarebbero diventati dei personaggi. Nel film ci sono solo 17 minuti di show. Il resto del tempo ci sono le attrici. Più avanti farò un film con gli attori della Comédie Française. La rosa purpurea. Ed eccoci ancora insieme, terza parte della Rosa Purpurea. Abbiamo ancora qualche film di quelli che arrivano nelle sale di questa settimana da analizzare. Cominciamo da un film che ha per certi versi punti di contatto e con Tournée che abbiamo appena raccontato nell'amarezza del racconto, e anche con un film che avevamo presentato la settimana scorsa che era Carissima a me con Sophie Marceau. Lì si parlava però tutto si svolgeva in una salsa più di commedia alla francese, quasi da Amélie per intenderci. Qui il clima è nettamente diverso, è assolutamente nordico, quasi bergmaniano. Insomma, stiamo parlando di Beyond, esordio alla regia di Pernilla August, attrice bergmaniana, guarda un po', era la giovane cameriera di Fanny Alexander, per chi la ricorda, nell'82, che aveva già avuto una importante carriera d'attrice, che adesso appunto debutta dietro la macchina da presa con questo film, che ha nel cast una attrice ormai molto conosciuta, la numera pace della trilogia di Millennium, l'uomo che odiava le donne, eccetera eccetera, insomma i film che avete conosciuto, tra l'altro qui recita col marito Ola, e quindi insomma tutta una cosa in famiglia. Il motto di questo film potrebbe essere: può essere difficile salvarsi dall'infanzia. L'infanzia nell'iconografia un po' sdolcinata, diciamo, e quasi un po' più pubblicitaria, è sempre raccontata come un'età bellissima, radiosa, sorridente, facile. Beh, l'infanzia può essere anche estremamente violenta, difficile, le emozioni non si sa mai come gestirle, è insomma una età di passaggio che ha le sue belle contraddizioni. Questo cerca di raccontare questo film, nel quale cerchiamo di entrare, come sempre, ascoltando un passaggio del trailer. Santa Incredibile. Lucia! Che bella Bellissima. Sorpresa! Sì, pronto? Ciao, Lena, sono mamma. Buongiorno, chiamo dall'ospedale di Istan. È stata sua madre a chiedervi di contattarla. Sì, di che si tratta? Non le resta molto da vivere. Potrebbe essere questione di ore. Pensa a Esther Williams mentre lo fai. Siamo un popolo forte con buoni geni. Ha il mio spirito, se so. Invece sì. Insomma, avete capito che il clima che anche il trailer restituisce è un quasi da horror psicologico. In effetti non siamo molto lontani. All'inizio avete sentito una telefonata che arriva nel giorno di Santa Lucia, festa in Svezia, ed è appunto una voce vecchia che arriva da lontano e che dice: vieni qui. È la madre di Lina, appunto, la protagonista, una donna che ormai ha i suoi figli e la sua vita, e che appunto è praticamente in fin di vita. Il viaggio di avvicinamento verso l'ospedale da parte di Lina con appunto il marito e i bambini, che non hanno praticamente mai conosciuto la nonna, è un viaggio che innesca una sorta di ritorno continuo, di flashback continuo al proprio passato, al passato di Lina, che è il passato di un'infanzia negata per tante motivazioni, una famiglia che è arrivata in Svezia marginalmente, piena di problemi, i genitori poveri, alcolizzati, immigrati dalla Finlandia che cercano di costruire qualcosa ma non ne sono praticamente in grado. Da quel passato, proprio per staccarsi da quei modelli, Lina ha rimosso totalmente quello che era accaduto con tanta fatica, costruendosi un presente sereno, ma questo graffio, questa telefonata apre proprio uno squarcio che lascia uscire tutta questa amarezza che il film racconta appunto con continui flashback su due piani temporali diversi. In questo vi raccontavo prima l'analogia con Carissima me, dove anche lì la Sophie Marceau quarantenne, donna in carriera, viene risvegliata nel suo passato, anche in quel caso rimosso e anche in quel caso difficile e marginale, da una lettera di un notaio che lei stessa si era scritta tanti anni prima. Qui invece è la telefonata della madre a sortire questo effetto. Dicevamo dell'esordio alla regia di Pernilla August, presentato tra l'altro alla scorsa mostra del cinema di Venezia, nella settimana della critica, che ha avuto un grandissimo esito in termini anche di critica e di pubblico. Un film molto intenso, con un'amarezza di fondo, ma anche con una speranza, perché in fondo è un film che ci dice come tutto sommato dall'infanzia ci si possa anche salvare, come dicevamo in apertura di questo racconto. La protagonista bambina, appunto, è tutto sommato alla fine una che cerca sempre di mettere a posto tutto, di aiutare il fratellino, di cercare di vedere nei suoi genitori l'aspetto più positivo e di vivere vivere appunto nonostante tutto. E alla fine, diciamo così, senza voler anticipare esiti, tanto non è un thriller né un giallo, insomma, alla fine ce la farà a vivere la propria vita anche nonostante questo nuovo incontro che la malattia della madre le mette di fronte, l'incontro con la se stessa di tanti anni prima che aveva voluto faticosamente mettere in un angolo. Questo è il film Beyond, appunto, di Pernilla August, un notevole film che arriva nelle sale cinematografiche italiane da questo fine settimana. E allora siamo alla seconda tranche, al secondo suggerimento misterioso del DVD Game di oggi. Sentiamo. È un maschio! È un maschio! Un'altra bocca da sfamare! Rosina ha fatto un maschio! Sì, una tranquilla, fa cagare! È un maschio! Speriamo che venga a visitare, Loretto! Lo sapevo, beh, è un maschio! Beh, questo è già più riconoscibile di quello precedente. Se il frammento di prima, quella voce radiofonica, poteva essere un po' più attribuita a tanti film, qui un po' i dialetti, un po' questa scena straordinaria, una delle tantissime scene straordinarie di questo film, potrebbe avervi aiutato. Comunque scriveteci, diteci di che film si tratta, c'è la possibilità di vincere per il più bravo e preparato e veloce del sabato e della domenica un Blu-ray proprio di questo film. L'indirizzo è La Rosa Purpurea, @radio24.it. Oh, e siamo a un altro film italiano, settimana nella quale abbiamo dovuto scegliere, l'abbiamo fatto come sempre con fatica, perché sia quando i film sono da promuovere, sia quando sono da bocciare, noi verrebbe sempre voglia di dirvelo per cercare così di aiutarvi magari anche a destreggiarvi meglio nei tamburini cinematografici della vostra città. Dicevo, un altro film italiano, qui invece siamo in zona promozione, perché torna nelle sale italiane Marco Bellocchio, e lo fa con un film davvero molto particolare, che mischia tutta una serie di suggestioni. Allora io direi alla regia di mettere già in onda, di far ascoltare al nostro pubblico il trailer, la parte, diciamo, più il consuntivo del trailer, che ha un po' diversi momenti e che racconta forse meglio di tante parole questo nuovo film di Marco Bellocchio. Fra poco ne parliamo con Boris Sollazzo. Il richiamo di questo paese immutabile da cui non riesco a separarmi. Però mi sognano altri: scrivere, recitare, inventare. E invece... Ma tu ce li hai questi soldi? E secondo te? Ti prego, Giorgio, non mi rovinare. Stai tranquillo. E per la cappella? Quale cappella? La cappella del cimitero della vostra famiglia. Prima la casa, poi la cappella. Però c'è stato un colpo di fortuna. La cappella accanto alla vostra è vuota e si è estinta la famiglia. Che devo fare? Che so io, ho 13 anni. È vero, c'hai ragione. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Grande, grande Domenico Modugno sullo sfondo di Sorelle Mai, un film che nasce dall'esperienza di Marco Bellocchio alla direzione dei corsi di cinema di Bobbio, della sua cittadina natale in provincia di Piacenza, che fu anche sfondo di uno dei suoi capolavori, I pugni in tasca, il suo folgorante film d'esordio. Un film in episodi, questo Sorelle Mai, dove Mai è un cognome e quindi queste sorelle si chiamano proprio così. Ma facciamoci raccontare un po' meglio come stanno insieme questi episodi e queste straordinarie attrici e attori che affollano il film, da Pier Giorgio Bellocchio a Donatella Finocchiaro ad Alba Rohrwacher, tanto per dirne solo alcuni. Boris. Salve Franco e a tutti gli ascoltatori. Guarda, è veramente un gioiello, Sorelle Mai. Io trovo che Marco Bellocchio, perdonami la provocazione, è il nostro regista più giovane, è uno che continua a sperimentare e qui ci offre un film completamente fuori dagli schemi. 6 episodi girati tra il 99 e il 2008. Diciamo che come centro possiamo individuare il laboratorio Fare Cinema, che lui fa sempre nella Natia Bobbio, che appunto è un luogo personale, individuale, ma ormai anche cinematografico, perché uno dei più bei film italiani mai girati, Pugni in tasca, è nato lì. Ci sono queste sorelle, che sono poi le sorelle di Bellocchio, c'è una nipotina, che poi è la nipotina di Bellocchio, Elena. C'è il figlio di Bellocchio, che non fa il figlio di Bellocchio, che è Pier Giorgio, e ci sono queste grandi attrici che tu hai detto, tra cui soprattutto mi piace rimarcare Donatella Finocchiaro, sia per la bravura sia per l'importanza del ruolo che ha. Ed è un film che racconta delle scelte che racconta delle relazioni, che racconta anche molto del nostro paese. Abbiamo sentito Modugno, ma abbiamo sentito anche una riflessione all'inizio del, tra virgolette, estratto, che è molto attuale. Il tutto appunto in un cinema che non siamo abituati a vedere, in un cinema che potrebbe sembrare frammentario, lui stesso lo trovava frammentario, tanto che lo ha montato questo film solo in vista della selezione a Venezia, gli ha dato una continuità e gli ha dato però anche un'irregolarità meravigliosa. Io devo dire, sono rimasto davvero molto molto colpito. Bellocchio, secondo me, da qualche anno a questa parte ha ritrovato una nuova primavera e continua a stupirci rompendo sempre gli schemi. Da Vincere appunto a Sorelle Mai. E allora, perfetto, direi che sponsorizzazione, endorsement riuscito per Sorelle Mai da parte di Boris Sollazzo. Grazie Boris, a risentirci. Grazie a te, a presto. La Rosa Purpurea. Ed eccoci qua, le nostre visioni domestiche, la parte conclusiva della Rosa Purpura, come sempre dedicata ai film da vedere a casa attraverso l'home video oppure anche attraverso la televisione, per una volta amica del cinema, e in questo senso la solita spulciata ai palinsesti in chiaro e gratuiti della prossima settimana per scovare un paio di film davvero da non perdere l'ha fatto, e questo lavoro l'ha fatto come sempre la redazione di Film TV. Noi siamo in collegamento con Sara Sagratti. Ciao Sara, cominciamo coi consigli. Ciao Franco, un caro saluto dalla redazione di Film TV. Oggi andiamo velocissimi perché c'è uno dei nostri film preferiti degli ultimi anni da segnalare, che è Gran Torino, una prima TV da non perdere, che andrà in onda su Rete 4 alle 21.10 mercoledì 23 marzo. E che dire, è Clint Eastwood, è la nostra moral guidance, è in questo caso un uomo neovedovo, reduce dalla Corea, che vorrebbe solo starsene sotto il suo portico ad aspettare la fine della sua vita con una birra in mano, e si ritrova catapultato invece in tutto altro mondo, e noi con lui, grazie ai vicini di casa dell'etnia Hmong, che è un'etnia coreana. La sua vita e la nostra cambierà per sempre, anche perché in maniera molto semplice, molto immediata e drammatica, Clint ci mette di fronte alle responsabilità di ogni tipo di padre con ogni tipo di figli, quindi stiamo parlando anche di generazioni, società, politica, di tutto quello che volete, in una storia di morte e resurrezione che ci porta via con lui, anche grazie a una splendida musica proprio composta da Clint. Insomma, una prima TV da non perdere. E allora Gran Torino, mercoledì 23 marzo alle 21.10, Rete 4. Grande cinema d'autore italiano invece per il nostro secondo consiglio. Sì Franco, per la seconda segnalazione cambiamo genere, quindi passiamo dal maschile di Clint al femminile, se vogliamo dire anche tra lo yin e lo yang, per Giulietta degli Spiriti, che è il primo film a colori di Federico Fellini, con ovviamente Giulietta Masina, che andrà in onda sempre mercoledì 23 marzo, sempre su Rete 4, ma alle 2.15. In Giulietta degli Spiriti la Masina è una donna borghese, ricca, all'apparenza, se vogliamo, a tutto, ma si ritrova improvvisamente infelice e decide che deve trovare un altro mondo, che sia reale o addirittura visionario immaginario. Fellini crea intorno a lei un mondo ricchissimo di colori, di immagini, di forza emotiva, evocata proprio da queste forti contrasti barocchi, se vogliamo metterla così, in un film che molti dicono non sia tra i suoi migliori, ma sicuramente strariconoscibile nel suo immaginario, nel suo mondo visionario, con una Masina incredibile e una Sandra Milo da non perdere in un triplice ruolo. E questo è allora Giulietta degli Spiriti, mercoledì 23 marzo, grande serata di cinema, ore 2.15 della notte su Rete 4. Grazie Sara, buon lavoro agli amici di Film TV. Grazie Franco, alla prossima settimana. E allora questi erano i consigli per puntare il vostro videoregistratore e godere di grande cinema anche attraverso la televisione. Terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. E allora, tre violche. Ma come scritti? In 10 minuti, è tutto da solo. In 6 uomini ci vuole una mezza giornata. E questo qua? Questo me lo chiamate un lavoro ben fatto? Se non sei convinto. Ma ti rendi conto, testone, che questa è roba che viene dall'estero? Il mondo contadino di un capolavoro del cinema italiano, La Rosa Purpurea, @radio24.it. Se avete indovinato di che film si tratta, vedo già che le risposte stanno fioccando copiose. Noi facciamo un salto indietro, andiamo a 7 giorni fa e sentiamo una delle tracce che vi avevamo proposto. Sappiamo che ci ha fregato l'idea e che ci ha detto chiaramente un sacco di balle. No, non ci ha mai detto balle. No, non ce le ha dette in faccia. Ma le ha raccontate alle nostre mail e si è preso 42 giorni di vantaggio, perché sa quello che a quanto pare tu non sai, e cioè che conta solo arrivare primi. E questo era The Social Network, era il film che vi avevamo proposto la settimana scorsa, edizione in Blu-ray di un film che è stato capace di sposare l'Instant Movie, cioè di raccontare un fenomeno che è assolutamente esploso in questi ultimi anni, ultimissimi anni, e anche di fare del grande cinema, che è sempre un connubio non facilissimo da mettere insieme. E allora facciamoci raccontare The Social Network dal nostro cattivissimo recensore, no, non è vero, assolutamente non cattivissimo, Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. No, beh, in questo caso sicuramente buonissimo, direi, perché l'edizione è assolutamente di lusso da Sony Pictures Home Entertainment per il gioiello di David Fincher, che offre appunto questo doppio DVD, cioè soprattutto il Blu-ray di eccellente resa sia per le immagini che per questa traccia DTS ad alta risoluzione, sia in inglese ma anche finalmente in italiano. Sono tantissimi gli extra, c'è da ascoltare assolutamente il commento del regista, un film documentario di una novantina di minuti che segue la creazione dell'opera, però molto interessante anche il focus sulla colonna sonora realizzata da Trent Reznor, leader della band dei Nine Inch Nails. E questo allora è The Social Network in distribuzione appunto nelle videoteche, nei centri commerciali per questa settimana. Era il game della settimana scorsa, svelato questa settimana, e chiaramente invece fra 7 giorni capirete che film è quello che vi avevamo proposto oggi per farvi giocare. Abbiamo come sempre lo spazio per un paio di recensioni. Nelle sale cinematografiche in questo fine settimana arriva un film che si intitola semplicemente Dylan Dog. È un film di cui, come avete visto, anche per ragioni di spazio non siamo riusciti a parlare ad approfondire, ma ci piaceva riprenderlo da un altro punto di vista, quello di un precedente che molti fan del fumetto di Sclavi e di Bonelli hanno definito il vero Dylan Dog, anche perché davvero si è sempre detto ma Dylan Dog è identico a Rupert Everett, no? E beh, quel film della morte e dell'amore aveva proprio come protagonista Rupert Everett. Molti hanno anche visto un po' come uno sfregio il fatto di non averlo avuto protagonista in questo film che si intitola invece Dylan Dog e che esce nelle sale in questo fine settimana. Ascoltiamo una clip. 4 moto in corsa. La figlia del sindaco era su una. La testa staccata di netto. Gliel'hanno ricucita con il filo. Le moto si sono scontrate con il pullman dei Boy Scout che stavano tornando dalla gita della parrocchia. La strage degli innocenti. Una moria di giovani. Già. Sembrava che avessero tutta la vita davanti e invece ce l'avevano dietro. Ne ha di lavoro della morte. Più di quanto creda. Francesco della Morte è il custode di un cimitero a Buffalora, a Camposanto, dove, ahimè, i morti tornano come zombie cannibali a pochi giorni dalla sepoltura e lui li elimina sparandogli in fronte. Si invaghisce di una giovane vedova giunta al cimitero per visitare la tomba del marito, ma anche lei ben presto si trasformerà. Tratto da un romanzo di Tiziano Sclavi, il creatore di Dylan Dog, il film è interpretato dall'inglese Rupert Everett, l'attore il cui volto venne preso ad esempio per il personaggio dei fumetti. Tra horror e grottesco, il film di Soavi trattò l'argomento morti viventi in modo abbastanza originale. E allora questa edizione nuovissima, solo in DVD, da collezione, da Cecchi Gori, edizione 2 dischi, immagini del film sono abbastanza discrete, c'è una doppia traccia stereofonica italiano-inglese, sono tantissimi gli extra, ci sono vari approfondimenti sulla lavorazione, sui produttori Tiziano Sclavi, ma soprattutto segnalo questa interessantissima retrospettiva sulla festa nazionale internazionale del cinema horror, il famoso Dylan Dog Horror Fest, le cui 4 edizioni si svolsero a Milano tra l'87 e il 93. Straordinario evento, ho parlato più volte con Bonelli, dice ma fai ancora il Dylan Dog Horror Fest, gliel'hanno chiesto in molti, ma lui non ci stava più, era troppo faticoso, ma era un evento davvero straordinario. Andiamo all'ultimo film in uscita in un video di cui vogliamo parlarvi, perché è un film davvero molto molto singolare, un killer che ha smesso di uccidere per amore, ma che dal cattivo di turno viene condannato a una morte singolare, deve correre sempre, appena si ferma muore. Sentiamo. Se ti fermi morirai. Quello che sto cercando di fare. Continuo a muovermi, a fare pompare il sangue. Pronto, sei ancora lì? Cevi? Ogni volta che rallento è come se le vene mi si arrugginissero. Hai preso qualcosa? Un paio di grammi di coca. È già qualcosa. Senti, sarò a Los Angeles tra un'ora. Ti chiamo appena arrivo, ma tu non smettere di muoverti. Tieni in circolo l'adrenalina. Cerci Celio, se un killer che scopre di essere stato avvelenato dovrà fare di tutto, ma soprattutto correre per restare vivo grazie alle continue scariche di adrenalina, questa lunghissima corsa terminerà forse fatalmente. Il film è stato girato in alta definizione, l'edizione Blu-ray di 01 Distribution è assolutamente strepitosa, gli extra sono identici al DVD, tra cui segnalo questi 23 minuti sul set e un imbarazzante quanto divertente intervista all'attore Jason Statham. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana, non c'è più tempo, saluti a tutti quelli che ci hanno ascoltato, La Rosa Purpura torna sabato e domenica prossima, un saluto da Franco D'Assisti.